Allora, facciamo un po' il bilancio di quest'anno, di quello come Aleph e di quello che ci sta aspettando nel futuro, a ruota libera, no? In questo momento siamo io, Carolina, Barbara e Marta. Attilio sta preparandosi a partire per l'Australia, e quindi non è qua, ma insomma è nella stanza accanto. Quest'ultimo periodo abbiamo vissuto spesso insieme. E quindi abbiamo sperimentato cos'è una convivenza all'interno di un progetto. E Aleph, lo scopo di Aleph, come sappiamo, è quello di lavorare sulle relazioni sinergiche, creare quindi armonia e dialogo. Ecco, cosa che non è così semplice. Ecco, anche la convivenza espone spesso dei problemi di adattamento. Come sappiamo tutti, abbiamo stili di pensiero diversi, abbiamo tipologie differenti, abitudini. Ecco, quindi la convivenza è un vero e proprio lavoro. La coppia si dice che è l'università delle relazioni, probabilmente la convivenza in un gruppo è la specializzazione post-università. Il master. Ecco, il master, cioè, ecco. Va bene, così. A ruota libera direi, intanto comincerei ad andare indietro nel tempo. L'ultima cosa che successe, siamo andati a Cantalupo a ritrovare Boris Porena e la moglie Paola Buccia, e lì è stato un po' ritornare a sciacquare i panni in Arno, perché come sapete tutti siamo partiti da lì, siamo partiti dal lavoro di Boris, da Boris Porena e dal suo allora pratica metaculturale di base. Oggi ci troviamo di fronte proprio a un lavoro completamente nuovo rispetto a anni fa, insomma, c'è una continuità, ma c'è no, molte novità. In quei giorni, beh, intanto è stato piacere condividere con Boris e Paola. Per esempio, una mattina mi trovavo in cucina con Paola e lei mi parlava della sua esperienza di vita proprio quando era ragazzina, che abitava a Zagabria. Lì mi diceva, stavamo parlando dell'individualismo che è oggi diffuso, e dice che per lei è qualcosa di molto, molto diverso da quello che ha vissuto lei nell'infanzia. Per lei era normale condividere tutto, anche perché si considerava che non esisteva il mio, il tuo, esisteva quello che ci appartiene a tutti, eravamo fieri. Per esempio, se andava a scuola, lei era fiera di appartenere a quella scuola lì, è chiaro che nessuno dei ragazzini allora avrebbe rovinato un banco, perché si sentivano parte di qualcosa, erano la città stessa, era una comunità. Bene, quindi quando poi venne in Italia, naturalmente si trovò di fronte a tutt'altro tipo di. E quella conversazione fu molto interessante e mi rendo conto che spesso noi nella vita andiamo a cercare sui libri o sulle fonti le cose che ci abbiamo accanto. Le persone sono degli universi ricchissimi. E Porena in questo è proprio veramente un maestro, perché lui mi ha sempre insegnato che è più importante ascoltare che parlare. E non credo di essere un grande suo allievo, purtroppo, ancora, ma dopo che l'ho visto l'ultima volta ho cominciato a prendere questa decisione che aumenterò il mio livello d'ascolto. Forse probabilmente è dovuto al fatto che, avendo cambiato varie attività, varie professioni, mi sento ancora appunto come un liceale che quindi sta passando la terza liceo, quindi deve fare. Quindi parlargli serve a capire quello che c'è nella testa. Ma adesso è ora di passare oltre. Quindi, intanto cominciamo subito. Se vi viene in mente qualcosa di che cosa vi ha colpito di quest'anno, di quello che sta succedendo nella ricerca, nel mondo Aleph, benvenga, cominciamo. Vai. Allora, Marta. Beh, io sono veramente grata di poter far parte di questo gruppo che sta nascendo di ricerca e sono molto felice della sensazione che provo dentro rispetto al fatto che il futuro di Aleph ospita proprio quest'idea di gruppo, di convivenza, di appartenenza che io sento non legata necessariamente a chi è qui fisicamente, ma proprio la estendo a tutti quanti quelli che condividono questo progetto, questa sensazione di appartenenza. E, in questo senso, proprio un grazie dal profondo a Carolina e Mauro e a Valentina, a Barbara e a tutti quanti, anche a Tiglio chiaramente, e a tutti quanti quelli che sono su questo percorso. E, una frase che mi ha colpito ieri di Mauro era ringraziare per tutti i problemi che abbiamo, perché sono fonte di, così di ricchezza da poter poi superare e poter poi condividere queste conquiste con chi eventualmente incontreremo sul nostro percorso. E quindi in questo senso mi sento privilegiata e comunque appunto tanta gratitudine e sicurezza che questo 2010 sarà un anno spaziale fantastico, ecco. Questo è quanto. Senti, tra l'altro sarebbe carino che parlaste dell'esperienza che avete avuto proprio contemporaneamente a noi, mentre eravamo da Boris, voi cosa avete fatto, insomma, in quel periodo lì? Perché Barbara me ne ha parlato, Tiglio me ne hanno parlato, ma deve essere stata un'esperienza notevole. Sì. Un capodanno. Che tipo di capodanno avete fatto, insomma? Facciamo una cosa corale. Sì. Sì, la cosa bella è proprio che è successo proprio anche in contemporanea a livello di tempo. E ci siamo trovati da Gianluca in una situazione molto bella, qui abita in un contesto molto bello, molto tranquillo, molto che ci ha coccolato in qualche modo anche il contesto. Eravamo Marta, Gianluca, io, l'Antonella di Firenze, Massimiliano, Attilio ovviamente. E poi si sono aggiunti per il capodanno Paolo e Emanuela. Ed è stata anche lì una bella esperienza di convivenza, perché abbiamo dormito, mangiato, eravamo tutti lì ospiti da Gianluca. La cosa bella che a me piace molto è anche che eravamo ospiti di casa sua, ma ognuno di noi ha fatto la sua parte, non è che Gianluca ci ha fatto tutto. Ognuno ha messo quello forse in cui si trovava meglio e ha fatto per tutti. E questa è una bella esperienza di condivisione che a me piace molto. In una situazione molto, se vogliamo, molto quotidiana, in cui avevamo Antonella che aveva mal di testa, Marta che è stata male con l'influenza. Cioè, in qualche modo, non è che erano 4 giorni che uno dice sì, vabbè, Capodanno, tutto funziona perché, cioè, come dire, tutta una situazione particolare. Lo era e anche no, cioè era molto casalingo, molto umano, ci cioè siamo presi cura della Marta che non stava bene, queste cose qua, che a me è una cosa che ha fatto molto piacere, cioè non che stessi male ovviamente, però che se proprio devi stare male eri lì e non eri a casa da sola, insomma. Yeah. E in tutto questo, in questo clima, sono nate delle idee molto belle, ovviamente tutte, come dire, base Aleph. Abbiamo parlato del percorso che stiamo facendo noi a livello personale, del percorso a livello proprio formativo, della ricerca, perché sia io che Marta che Gianluca siamo dentro in questo gruppo di ricerca. Abbiamo parlato proprio degli sviluppi che vediamo, di tutte le possibilità che ci sono e che non si sono ancora sviluppate, magari proprio perché non era forse il momento o perché mancava la famosa massa critica, che secondo me si sta venendo a creare adesso, perché proprio anche questo gruppo che si è trovato lì con scopo principale stare un po' insieme e fare un bel capodanno, ha creato qualcosa in quei giorni. Si è visto proprio a un certo punto che si è creata un'intelligenza superiore, non era più l'intelligenza di una persona più una, era qualcosa di più. È bello, proprio qualcosa che io ho sentito molto. E ci sono dei bei progetti per il 2010, anche come diceva Marta. Di creare proprio anche lì un polo, no? Sì, di Aleph, un polo di ricerca. Un centro proprio, sì, anche centro, cercando proprio questa zona, no? Una, che è la zona del Lago Maggiore, insomma, sì, quella zona lì, in vista delle montagne. Sì, e proprio stamattina mi ha chiamato poco fa Gianluca e mi ha parlato di 2 appuntamenti che sta cercando di prendere, uno con Vito Mancuso e l'altro con Giulietto Chiesa. Proprio perché lui adesso ha messo su Arcoiris dei filmati nostri, e sono molto allineati col lavoro di Mancuso che di Giulietto Chiesa. Insomma, io ho sentito lui molto carico, è veramente molto bello, lo sento veramente dentro completamente. Sì, sì. Poi lui con la sua formazione filosofica è proprio quello che ci vuole in questo momento qua. Quindi potreste veramente creare. Sì, è bello perché ognuno di noi, tutti noi ci mette la sua peculiarità, esatto, la sua capacità, la sua qualità principale, esatto, no? Andando tutti insieme, stando tutti insieme, mano per mano, ognuno segue la propria mission, che poi, essendo andando all'Ubuntu, esatto, ha un terreno comune. Va bene, io potrei cominciare dall'ultima cosa che è successa. Siamo stati appunto da Porena, come diceva Mauro, e è stato veramente fantastico. E posso dire, sì, gli anni stanno passando per loro, ma la conoscenza che hanno è incredibile, e se fosse una fonte, noi abbiamo attinto a questa fonte per una percentuale ancora bassa, cioè tanto, cui noi abbiamo ancora da imparare, proprio tanto. Quindi è stato molto molto arricchente. Diciamo che per me quei giorni lì sono stati anche rientrare nella ricerca a tempo pieno, cosa che io desidero fare, dichiaro che è la mia intenzione per gli anni che vengono, mentre nel frattempo io invece mi sono dedicata molto agli aspetti logistici, però in questi anni la Barbara è diventata sempre più efficace, sempre più proprio efficiente, insostituibile, per cui ancora stamattina abbiamo fatto un'altra riunione. E la conseguenza sarà che per il 2010 la Barbara sarà più autonoma per certe cose, io sarò più sgravata per il discorso logistico e quindi avrò più tempo per impegnarmi nella ricerca. E per me la ricerca significa ricerca Aleph e ricerca mia di vita personale, perché il discorso viaggi, per esempio, l'ho sospeso appunto per queste necessità logistiche dell'Aleph, e quindi c'è un discorso mio personale che io è bene che riprenda e che è parallelo all'Aleph. Non è una cosa diversa, non sono compartimenti stagni, quello che l'esperienza che è di là nei viaggi la riporto di qua e viceversa. Ah, anzi, con l'introduzione di Attilio un po' marginale, il discorso viaggi è un discorso che sta entrando in maniera abbastanza interessante in Aleph. Sì, cioè potrebbe condiviso essere anche da altre persone, come Gianluca, come Paolo, sì. Cioè c'è l'idea, adesso con Attilio potrà diventare più concreta, ma comunque anche da prima l'idea, perché per esempio i nostri colleghi di Poggio del Fuoco avevano poi negli anni aperto una sezione viaggi, i loro viaggi erano principalmente in India, perché per loro era importante la figura di Rerik, il pittore, quindi loro sono tornati nei luoghi di origine di Rerik e poi lì hanno anche acquisito degli spazi così, e regolarmente i viaggi venivano un po' fatti in quella parte del mondo per quel motivo lì, per quell'aggancio lì. Io avevo già pensato, con qualcuno ho pensato anche, per esempio per noi poteva essere carino organizzare dei viaggi di camminate, di trekking, stile Santiago di Compostela, in cui c'è la camminata, la riflessione, la condivisione, la convivenza. Sì. Adesso con Attilio magari vengono fuori delle cose anche di quel tipo lì, perché potrebbe essere una cosa fatta tipo in Turchia... alle Meteore, si chiamano Meteore? No, Cappadocia. Cappadocia, sì. Quindi viaggi tematici, pilotati, che abbiano un senso particolare per noi. Sì. Perché è proprio questo, l'idea del viaggio, quello che stiamo facendo tutti noi è un viaggio nella vita. Anche il viaggio proprio di spostarsi fisicamente, fare determinate cose, cioè non andare al resort 5 stelle, ma fare quello che tu stai descrivendo, è parte di questo percorso. Sì, sì. Per chi se lo sente di più, qualcuno se lo sente meno, ma è bello, secondo me, pensare di poter fare una sezione, integrare anche questo. Sì, sì, e secondo me sta un po' venendo fuori, insomma, finalmente. Sono maturi i tempi anche per quello. Evidentemente, credo che si sta per aprire un'altra sezione, insomma, fra un pochino. Che un altro dei nostri maestri è stato Gigi Mario. Gigi Mario, monaco zen, guida alpina, maestro di sci. Stare vicino a lui è stato magico, devo dire. Proprio sia il viaggio sia la montagna offrono la possibilità di modificare le proprie abitudini e andare all'essenziale, cioè in viaggio non ti puoi portare tutta la casa, devi ridurre al massimo, no? E lo stesso in montagna, sono attività che portano naturalmente verso la concentrazione su ciò che è essenziale, no? Mentre oggi siamo circondati dalle cose inutili, sovrabbondanti, al consumismo e così via. Quindi questo... Proprio come dei ritiri, Mauro, come lo descrivi me lo immagino, come un ritiro spirituale, che c'è chi lo fa pregando, chi lo fa meditando, noi potremmo farlo camminando, con un certo tipo di viaggio, andando in montagna, un certo modo di procedere, certo. Perché tutte queste cose, attenzione, andare in montagna può essere consumistico, andare in viaggio è consumismo, no? Purtroppo l'Occidente, che si è imposto così tanto nel mondo, ha fatto in modo che le pratiche, che erano veramente pratiche spirituali, sono diventate pratiche di consumo, insomma. Ecco, invece ritornare a queste pratiche a livello profondo è una grande sfida. Sì. Tra l'altro, proprio questo discorso ci siamo resi anche conto che i progetti che abbiamo a tempo breve, che sono fare un DVD, tanto una cosa, DVD che è stato fatto sull'Ubuntu, è stato per me un esempio straordinario, cioè veramente magico, di come avete collaborato insieme nella scuola, no? Che c'eri tu Marta, c'era l'Arianna. Massimiliano, Gianluca, Paolo Gianluca. E poi Andrea Farioli, insomma avete fatto un lavoro che a vederlo è veramente colpisce molto, e colpisce anche il modo con cui è stato montato il film, è proprio molto bello. Allora la nostra idea è di fare qualcosa del genere rispetto a Aleph in genere, perché è molto difficile, sapete tutti, parlare di Aleph, perché Aleph è piuttosto vasta, come parlare dell'Asia, di cosa parli? Cosa parli? Delle persone, parli della scrittura, parli delle idee, un sacco di roba, esatto, è molto. E allora fare un DVD che sia una presentazione Aleph è una cosa che può essere molto, ci può stimolare parecchio. L'altra è che stanno partendo queste idee delle conferenze sostenute da dei materiali, per cui tutti i soci Aleph che vorranno poi fare le conferenze, vorranno collaborare in questo, avranno a disposizione i materiali da portare in aula, delle diapositive che facilitano di molto, no? Trattenere un pubblico, mantenendolo sulla rotta e dando dei messaggi chiari, insomma. Questo è un altro dei progetti che sono in corso. E tutto questo si colloca proprio in un'ottica di risistematizzare bene tutto il materiale Aleph, no? Sì. Utilizzare una struttura per renderlo più fruibile. Ricordate, abbiamo passato quasi un'oretta a vedere quali sono i vari temi di Aleph. Se adesso dovessi riprenderli al volo, insomma, proprio sinteticamente. Ce li ho, secondo me. Ce li hai? Allora... Ecco, tu hai preso appunti, sì, così. Sì. Allora, in ordine sparso. Sì, in ordine sparso. Subpersonalità e tipi umani. Sì, è uno dei temi fondamentali di ricerca Aleph, è questo, no? Per poter dialogare occorre anche tener conto della tipologia dell'altra persona, poter avere una relazione intensa e profonda. Insomma, se io sono un violoncello devo sapere se tu sei un flauto o sei una chitarra, cioè sono cose diverse. Specialmente se devo essere un compositore, devo capire che strumenti stiamo adoperando. Soprattutto se vogliamo suonare insieme. Se vogliamo suonare insieme, insomma. Ecco, per esempio nel lavoro che abbiamo fatto io e Barbara in questo periodo, ci siamo resi conto di come le nostre tipologie, sono diverse. Cioè Barbara è una tipologia più judger, quindi mentre io sono radicato nel perceivere estremo. Conseguentemente abbiamo avuto bisogno di un periodo di rodaggio, perché proprio sono modi diversi di vedere il mondo, sono come parlare un'altra lingua, ecco, e osservare e percepire il mondo diversamente, quindi quello che per Barbara è del tutto ovvio per me non lo è, e viceversa, ecco, quindi occorre un periodo di aggiustamento. A maggior ragione vale per le subpersonalità. Mentre i tipi umani, bene o male, sono parte della natura umana, nel senso che uno ha i capelli biondi, un altro ha i capelli rossi, un altro è fisico tarchiato, l'altro è longilineo. I tipi umani sono più così, mentre invece le subpersonalità dipendono, sono carattere. Ecco, il carattere dipende da ciò che ci è successo nella biografia, e quindi dal rapporto che abbiamo avuto in famiglia, queste cose. Anche lì le subpersonalità, finché non si trasformano in stili, diventano degli ostacoli alla comunicazione. Questo vale anche per, teniamoci, vale anche sui tipi umani, se li radicalizziamo. Ecco, quindi io, per esempio, devo essere sempre molto consapevole che quando sono nel perceivere estremo, certo, un altro può anche capire cosa faccio, ma non condividere magari non è facile. Ecco. Per me è altrettanto difficile se un'altra persona è sul giaggere estremo. Se lo fosse sull'estremo avrei difficoltà serie, perché ecco. Quindi anche nei tipi umani si riesce a comunicare meglio se, oltre a essere complementari, si rende conto che siamo complementari, se si va verso una linea di mezzo. Nel supersonalità è ancora di più. Supersonalità, ognuna delle supersonalità sviluppa delle risorse, perché ogni problema, siccome nascono da problemi e sono generatori di problemi, ma i problemi sappiamo che proprio perché ci sono difficoltà, la mente si impegna a risolverli. Magari non ci riesce, magari fa solo una gran fatica, però mette l'energia lì. E una volta che trova la strada, perché trova le indicazioni adatte, quella molla schiacciata rilascia tutta l'energia accumulata. Uh-huh. Ecco. E questo mi porta a dire una cosa importante della ricerca ALF di questi ultimi tempi. Sempre di più ci rendiamo conto che i problemi non sono problemi personali, sono quasi praticamente sempre problemi universali. Uh-huh. Non c'è il problema del giudizio di Marta o di Mauro o di Carolina, c'è il giudizio, non c'è la paura di Marta. Sì, c'è, è chiaro, posso anche vederla così. È molto più utile vedere la paura come qualcosa che è universale. Questo consente la disidentificazione. Adesso non parlo più della mia paura, ma parlo della paura in generale. Questo mi avvicina alle altre persone che ce l'hanno. Mi rendo conto che non sono solo io ad averla e vado a capire le strutture che la generano, che sono strutture di tipo culturale. Quindi la ricerca ALF da tempo ormai ha preso questo indirizzo, passare dal lavoro personale a una visione più generale che fa sì che il lavoro personale è un'occasione per lavorare su quello che a noi sta più a cuore di tutti, che è la cura delle idee, cioè la terapia delle idee, perverse purtroppo in gran parte dentro cui siamo abituati a vivere, ecco, prima del consumismo, l'individualismo, l'egoismo, tutte queste cose. Ok. Poi ho insegnato la psicologia buddista e la psicosintesi, che erano... Ecco, sì, certo, non si può capire il lavoro di ALF se si prescinde dalla psicosintesi, che è stato uno dei, oltre alla PNL, naturalmente una delle basi fondamentali, tutto il lavoro di Assagioli, che qui va bene, non posso nemmeno accennare, e l'altro lavoro sulla psicologia buddista. Ho detto tante volte che forse oggi non farei più il lavoro di attività che faccio se non avessi incontrato la psicologia buddista, in gran parte dovuta all'incontro con Lino Lepore, che è stato, mi ha portato per mano a esplorare questo territorio, che ha generato in me una comprensione completamente diversa della psicoumana. Già anticipata dalla psicosintesi, però nella la ricerca della psicologia buddista è molto precisa in questo, e quindi tutte le letture che ho fatto in quel settore mi hanno, ho sentito sempre che mi davano una visione sempre più chiara. Da lì è nato tutto il lavoro sulle qualità dell'essere, sugli inquinanti, che è uno dei centri, che infatti è il punto dopo, che è uno dei centri del lavoro ALF, accanto al quale c'è naturalmente il lavoro sulle barriere, sulla comunicazione, che sono dei sintomi di inquinanti che stanno dietro, insomma, no? Quindi c'è tutta questa visione, inquinanti, barriere, e tutto questo lo puoi vedere poi collegato all'uso del potere, quindi credo che ci sarà il lavoro del racket, infatti il potere racket l'altro grande filone di ricerca è quella sul racket e anche di possibilità di intervento racket, che in cui vede, così come lo intendiamo ormai noi, il racket lo vediamo come uno strumento di consapevolezza, prendersi conto di quante volte noi utilizziamo inquinanti, va bene, inquinanti la mente, quindi l'egoismo, l'individualismo, la paura, la rabbia, e come questi inquinanti sono tenuti insieme, incollati insieme dal potere, cioè dalla ricerca del potere dominio. Anche chi apparentemente si limita solo a soffrire e a aiutare gli altri a soffrire intorno a sé, e beh, in effetti sta praticando potere dominio, se non altro su di sé, e poi con quelli che gli capitano a tiro. Quindi la ricerca sul racket è una ricerca soprattutto di tipo didattico, come si può far vedere queste cose alle persone in modo che se ne liberi. Ecco, perché il racket potremmo anche definirlo come un loop distruttivo, cioè tanto peggio, tanto peggio, tanto peggio. Ecco. Sì. Poi c'erano delle... sì, passato perché diciamo sì, che più antico sì. Sono le costellazioni. Certo, perché naturalmente Aleph non potrebbe prescindere dal lavoro sulle costellazioni. Bert Hellinger è stato un grande insegnamento, quello di Bert Hellinger, e quindi diciamo che anche quando non facciamo costellazioni, comunque il modello delle costellazioni è sempre sullo sfondo, fa parte di quei modelli importanti del nostro lavoro. Insomma. Sì. Sì, secondo me, se posso permettermi, il lavoro che hai fatto tu e che fai costantemente tu di allargare e dire sì, la costellazione familiare così come nasce va bene e dove si può applicare, cioè come si può allargare, cioè tu hai fatto un lavoro che è fantastico, cioè applicare il modello delle costellazioni non solo lì fermo alle persone che devono dire quelle robe lì, quelle familiari, ma più ampio, cioè siamo arrivati ai foglietti, siamo arrivati a fare le costellazioni delle parti interne, cioè questo secondo me è stato... Costellazioni parti interne è stata una cosa una roba, è stato ed è, cioè proprio il fatto di applicare delle cose che funzionano, cioè che è un po' quello, insomma, la tua ricerca, no? Di applicare tutto quello che funziona anche ad altro. È stato questa è un po' la caratteristica di Aleph, potremmo riassumere in un termine che ormai in cui ci riconosciamo, che è l'Ubuntu, no? Tutto è interconnesso, ogni cosa è interconnessa. E allora anche i modelli. Certo. Cioè, se noi ci specializziamo troppo in un modello, facciamo la fine che fa una parte della scienza della tecnologia contemporanea, si specializza troppo e quindi sviluppa hubris, cioè tracotanza, arroganza, quella che i greci temevano tanto e che in effetti purtroppo crea parecchi problemi, mentre invece pensare ai modelli come parti di un unico punto e che quindi sono sani in quanto dialogano tra loro come visioni diverse, finestre diverse sul mondo, fa sì che sia... che cominciamo a mettere ordine dentro la nostra mente. Cioè, al posto di un modello conflittuale, se c'è una differenza, le costellazioni dicono una cosa e, non so, la PNL ne dice un'altra, possiamo usare il pensiero complementare, lo stesso tipo di pensiero che usiamo tra le persone per poter dialogare. Se noi facciamo questo, non lo facciamo tra i modelli che abbiamo in testa, il dialogo è falso, non, perché vuol dire che abbiamo un cervello diviso. Ecco. Invece il nostro lavoro in Aleph è quello di passare dalla frammentazione, che è l'origine della sofferenza, quindi della paura, di tutto quello che conosciamo, alla tendenza verso l'unità. Ed è lì che si trova la forza, e quindi poi quando si trova la propria mission, si ha il propellente energetico necessario per metterla in azione, altrimenti ci troviamo di fronte a persone che disperdono gran parte dell'energia vitale in conflitti interni, visibili o meno visibili, insomma. Ce n'è altri. Sì, una cosa che c'è sempre stata, ma quest'anno in particolare verrà reintrodotta in maniera più forte, che è il lavoro sul corpo e sul respiro. Vedo Carolina che l'ha molto. Sì, anche la Marta sopporterà questa. Sì, beh. Abbiamo due esponenti. Non tener conto del corpo, della respirazione, tutto quello che abbiamo. Conosciamo un po' su questo, che sarebbe veramente è come tagliare via un braccio, insomma, dire, è meglio il braccio destro o il braccio sinistro, ma che discorso è? Ecco, allora, una mente funziona bene se è dentro un corpo che funziona bene, il corpo funziona bene se la mente funziona bene, insomma, poi c'è addirittura, non fa quasi distinzione, la mente è il corpo, il corpo è la mente. Quindi prese quella è una, comunque noi lo possiamo vedere come altra via di accesso, cioè si può cambiare vita migliorandola, cioè diventare autentici. L'ultimo libro che sto leggendo è il libro di Mancuso, il libro sull'autenticità. Cosa vuol dire autenticità? Essere autentici vuol dire essere se stessi, facile. Quindi se sono ossessivo sono me stesso, se sono istrionico sono me stesso, ma col cavolo, quella è una deviazione. Io sono me stesso se realizzo chi sono, cioè il mio potenziale. In termini aristotelici, l'entelechia, cioè ogni organismo ha dentro entelos, la scopa. E non solo gli uomini, i gatti, i cani, i pesci, le piante, qualunque, i sassi. c'è dentro uno scopo, la materia, l'aspetto, va nella direzione di realizzare questo scopo qua. Gli esseri umani naturalmente incontrano più degli altri ostacoli nel realizzare lo scopo, perché hanno un apparato complesso che è la mente. Mente ha la stessa derivazione di mentire. La mente, gran parte di ciò che fa è mentire, cioè di raccontarsi delle storie, che la mente tende a separare, dividere, e quindi sviluppa paura. E quando si ha paura, la prima cosa che si fa per difendersi è raccontare balle. È da lì che nasce l'ombra, detta in termini molto semplici, molto tecnici. Raccontare balle a chi? In primo luogo a se stessi. Allora noi ci realizziamo, diventiamo autentici nella misura in cui, facciamo una bella distinzione importante, per esempio la domanda: ma dobbiamo fidarci di noi o no? Questa domanda si può rispondere in modo, a mio avviso, sensato solo se si operano delle ore distinzioni. Io mi posso fidare al 100% dell'anima e al 100% di fidare del mio ego. E quindi poi la domanda diventa: come faccio a distinguere fra ego e anima? E lì si apre tutto un mondo importantissimo, veramente fondamentale. Conoscere questa distinzione è altrettanto importante che per un pilota di aereo è sapere l'altezza a cui vola, se sta andando verso l'alto o verso il basso. Sì. È piuttosto importante. Ecco, se un pilota gli si toglie questa possibilità di scoprirlo, probabilmente si sfracella il suolo molto fretta. Quindi quello è tutto un settore di lavoro, insomma, che veramente apre prospettive profonde, ecco. E tra l'altro lì si apre tutto il tema della spiritualità. E senza autenticità non può esserci spiritualità vera. Spiritualità è essere veramente se stessi. E quindi vuol dire onorare se stessi, onorare la propria parola come se stessi, dire le cose come stanno. E quindi vuol dire questo sciogliere la propria ombra. È che è quello che chiedeva Gesù. Gesù, in vari punti dei Vangeli, dice: bisogna che impariate a vigilare. Su che cosa? Sulla mente. Perché la mente mente. I pensieri sono pensieri falsi. Molti pensieri sono pensieri falsi. E allora il Regno dei Cieli non è aperto a chi ha pensieri falsi, e soprattutto per se ci crede. Ecco. Pensieri falsi abitano la mente umana da sempre. L'importante quindi non è se ci sono pensieri falsi o no, l'importante è saper discernere e quindi dare valore ai pensieri che sono in contatto con la realtà e non darne a quelli che invece sono deviati dalle forze dell'ego. Sì. Sì, ci sono ancora altri due punti. Uno che è molto importante, che è qualcosa che noi conosciamo già dalla PNL classica, che è la gerarchia dei valori, che quest'anno però per vari motivi ha avuto una spinta espansionistica, e Mauro stai creando, sì, proprio qualcosa di, sì, beh, di nuovo. Beh, in conseguenza del seminario che abbiamo fatto con Antonio, lì è nata in me una forte, cioè, intanto ho apprezzato molte cose che faceva Antonio e alcune cose invece avevo parecchie perplessità, quindi poi ci siamo visti, ne abbiamo parlato, ci siamo trovati in un accordo di fondo. Adesso direi che da questo lavoro è nato un modello di, diciamo, di sistematizzazione del lavoro personale, che può essere veramente la base per i counselor. Ne avevamo tanti modi, e non è che non avevamo, ma questo potrebbe essere un nuovo modo di affrontare le prime sedute nel counseling. Parte proprio dalla gerarchia di valori, ma fatta in modo completamente nuovo rispetto al passato, è molto più articolato. In questa gerarchia di valori, tra l'altro, ci si apre tutto il discorso sulle condizioni di amabilità, quindi non ci si limita a guardare i valori positivi o negativi, ma si va a vedere come mai certi valori nella propria vita sono così tanto energizzati. E quindi è tutto un lavoro che ci consente di recuperare tutti gli aspetti importanti del copione in una luce che ci permette di vedere piuttosto in fretta, direi, quali sono i nostri loop distruttivi, cioè quelli attraverso i quali manteniamo i problemi, e come possiamo trasformarli in loop costruttivi o creativi, cioè loop che liberano non solo noi ma le persone intorno dai problemi. che abbiamo, perché come dicevo prima i problemi non sono strettamente personali, sono sempre danze, tipi di danze a cui partecipiamo, e le danze sono collettive. Qui tra l'altro viene tutto il discorso poi sul metamodello 2, quest'anno è stato un altro grande lavoro che, uh-huh. che comunque, ora, tutte queste cose le trovate poi nel quaderno certo. mio che trovate, e lì vi invito, ecco un'altra cosa, vi invito veramente a fare come Tzotzi Aleph, andarla a guardare, perché soprattutto andando a vedere la pagina guida, la guida al sito, dove trovate dei percorsi possibili. È un po' come in montagna, si comincia a fare prima le vie facili e poi via via si può sciare, ci sono i percorsi insegnati. Diciamo ancora, per chi non l'avesse messo a fuoco, che ci si accede dalla home page di Aleph. Esatto, uh-huh. ci si accede proprio di lì, esatto, sì. Se posso ti dico una cosa riguardo a questa cosa qua della gerarchia dei valori, che stavo pensando mentre prima sì. parlavi di altre cose, di un discorso dei problemi, no? Quando anche Marta accennava sì. al pensiero, meno male che abbiamo avuto i problemi, così abbiamo... a quello che dici spesso tu nei corsi, soprattutto nei primi, che accanto a una storia di problemi c'è sempre una storia di risorse. E vedere questo lavoro appunto che tu stai sistematizzando mette proprio alla luce questo, cioè c'è un loop distruttivo e accanto c'è la possibilità di quello costruttivo, perché accanto alla storia di problemi c'è la storia di risorse. E questo è proprio, come esatto. dire, ci dà la sicurezza che, come caspita, l'avevamo quasi dimenticato, no? Certo. Come dire, è così. È lì. È così. Questo è molto, molto è così. Bello. E lì proprio vedi come la persona sta semplicemente rimanendo nel problema, perché manca la consapevolezza, cioè ci può sì. essere anche la buona volontà, ma non c'è la volontà, la parte sapiente, non sa come fare. Sì. Cioè io voglio risolvere il problema, ci metto tutto me stesso, e lo voglio risolvere anche per me, però non so come fare. Ecco. Allora lì ti dà un'indicazione di come usare la volontà che hai sì. accumulato, perché sicuramente ne vuoi uscire, in modo da poter realizzare questo obiettivo, insomma. La cosa bella è che parte dallo stesso punto, che questo è interessantissimo, punto. Cioè sì. è un loop che parte dallo stesso punto, stesso per cui punto. Quando uno è nel loop distruttivo dice sì, vabbè, come fa? Cioè, è difficile, no, perché parti dallo stesso dallo punto, stesso questo punto. Dice, ah, ok, quello lo so fare. Certo, lo sai fare molto bene. E hai accanto, e hai nella banca mentale sì. un'enorme quantità di risorse accumulate che servono proprio a quello. Sì, basta vedere, basta una pulitina degli sì. occhiali. Adesso l'abbiamo fatto già varie volte con tante persone, e ho visto proprio, visto come cambia proprio il sistema di osservare il mondo in conseguenza di questo. Quindi questo può essere una traccia molto buona per il futuro. Sì. Ultimo ma non ultimo, nel senso che in realtà sì. è un po' poi il, come dire, c'è una placenta, mi viene da dire, no? Il liquido amniotico in cui sta tutto il resto, sì. che poi è la ricerca, è quella che io qua ho sì. segnata in questo modo, la consapevolezza culturale, cioè tutto il lavoro che tu finora hai fatto e che adesso stiamo aiutandoti a fare. Sì, sì. E beh, questo è il... Finalmente, devo dire, ho trovato dei testi che danno ragione su questo tipo di ricerca, lo danno molto chiaro. L'ultimo testo di Galimberti, Miti di oggi, insomma, è veramente un miti testo... Archetipi e potere. Miti, archetipi e potere, è quello? Ma adesso non è mi sembra Miti di oggi, miti mi sembra. Adesso non so. Vabbè, lì per esempio parla a un certo punto, rifacendosi al pensiero di Hillman, dice proprio che oggi l'inconscio non è quello di una volta, oggi l'inconscio... l'economia, cioè ciò che c'è più ovvio sotto gli occhi. Quindi non occuparsi di come funziona l'economia oggi e pensare di poter aiutare delle persone probabilmente è un po' riduttivo, perché noi abitiamo in un mondo che è plasmato dall'economia in ogni atto che compiamo dal mattino alla sera, e non rendersi conto che questa economia sta portando il mondo alla distruzione, e che essendo noi cellule dell'organismo umano, come cellule sane, il nostro compito è darci da fare anche in quella direzione lì. E tra l'altro qui viene fuori il discorso di Camogli, che stiamo impegnando, tu stai facendo un lavoro per la ferrovia, cioè questi edifici che stanno costruendo, no? Qui nel nostro piccolo, Camogli è una cittadina piccolissima, però stanno facendo uno scempio, rischiano di fare uno scempio spaventoso. C'è uno spazio libero, lo cementificheranno tutto. E poter fermare queste cose non è facile, ma è possibile. Quindi questo è uno dei compiti. Tra l'altro, tu Barbara adesso stai tornando a casa con una serie di riviste, Il Consapevole, che fra un po' metterai sul sito, quindi tutti potranno accedere a molto di questo materiale, che sono la rivista Il Consapevole. Io, se fossi ricchissima delle cose che farei, donerei a tutte le scuole d'Italia, a tutti i posti possibili, che questa rivista ci sia dappertutto, perché è una rivista, non leggere quella rivista lì, non conoscere queste cose, è veramente un gran peccato, vuol dire non vivere nel mondo di oggi, nel mondo del... Diciamo, a chi interessa questa rivista credo che possa andare a vedere Il Giardino dei Libri, perché è edita da Arianna editrice. Credo anche che abbia un suo sito internet. Ah, sì, ce l'avrà, di sicuro. Ce l'avrà, mi pare, consapevole.it o consapevole.it. Ce l'avrà di sicuro. Comunque a breve poi mettiamo su tutto, io vado a cercare anche il link al sito. Va bene, allora con questo, adesso le cose da dire ce ne sono tante, adesso ci sono quelle. Sì, per esempio ci sarebbe il fatto anche che vogliamo ampliare la sezione musica, musicoterapia, questo è molto importante. Teatro, certo. Infatti si vede anche comunque da come sono stati impostati corsi, alcuni corsi di 2010. La sezione artistica la chiamata di Mauro. Espressività, libera espressività. Arte. Sì. Beh, quello è un settore fondamentale, poi in fondo è il settore da cui sono partito, a tre anni io avevo questo impulso verso la musica, che poi sono riuscito a tradire in modo così molto abile, e quindi fino a 30 anni ho vissuto un mondo che non ha vita, che non è la mia, e quindi sono un esperto di cosa vuol dire uscire di strada. Ecco, per questo però ho sviluppato, proprio per queste ragioni, ho sviluppato una serie di risorse che possono essere utili a rientrare sulla strada, insomma, chi l'ha fatto per tanto tempo, ecco. Sì. Ultima cosa, beh, insomma, da quello che ci siamo detti adesso stavamo parlando tra noi, tra l'altro, dell'isola di Kos, di Ippocrate, poi prima di Esculapio, così, per dire come queste intuizioni dell'arte, della musica, del teatro, come mezzi per terapeutici, insomma, per guarire la psiche, beh, sono antichi quanto il mondo, insomma. La musicoterapia non è nata certo adesso, la teatroterapia non è adesso. Anzi, erano parte integrante della società, quando la società era più organica, meno frammentata. Posso dire una cosa, che credo che oggi, data la vastità dei temi, non è immaginabile che di questi temi si occupi una sola persona, sarebbe ridicolo. È ovvio che per poter fare questo senza essere pazzi, cioè velleitari o megalomani, e occorre creare un gruppo di lavoro, un gruppo che funzioni però come una mente, una sola mente, cioè, diciamo così. E beh, questa è un po' la sfida che ci aspetta, no? Diventare veramente capaci di, in base alle nostre competenze, in base alle nostre preferenze, in base alle nostre attitudini, mettere insieme questo lavoro. Beh, vai. Allora, è dal libro di Rosenberg, sì, che tra l'altro è stato uno dei libri che quest'anno ci ha impegnato di più nel lavoro, uno dei modelli che abbiamo integrato, quello della comunicazione non violenta. Sì. Sì, questo libro è pieno di citazioni e ce n'era una che mi piaceva citarvi, perché quest'anno abbiamo fatto veramente tantissime cose e l'inizio del 2010, la sensazione che ho è proprio che sia un inizio ricco. Finalmente ci sono sì, proprio il terreno è diventato più fertile, si sta creando la famosa massa critica. È bello sapere che iniziamo quest'anno con un gruppo che è il gruppo di ricerca, ma è anche più allargato, un gruppo di persone che ci sono, che condividono i valori, che condividono la visione e che ognuno a suo modo, anche se magari fisicamente non sono qui, sta portando avanti questo. La citazione è questa, è di Joel Barker. La visione senza l'azione è semplicemente un sogno. L'azione senza la visione è semplicemente un modo per passare il tempo. La visione con l'azione può cambiare il mondo. Bene. Bene. No, Barbara, un attimo fa stavi proprio dicendo una cosa che ritengo veramente importante. Stavi dicendo, sai, il gruppo di ricerca cos'è? Beh, tanto è qualcosa di molto morbido, è flessibile, è vitale, quindi non è qualcosa di fissa, chi c'è, chi non c'è. Sono persone fisicamente presenti, il gruppo di ricerca è un gruppo che funziona anche a distanza. Ci sono, come dicevi tu, persone che sono proprio dentro il flusso Aleph, si stanno impegnando ma tempo pieno in questo, e magari non sono qui fisicamente, ovvio, e ce ne sono tanti ormai. Sì, che si stanno impegnando a portare nel mondo quell'armonia nelle relazioni che è poi la ricerca Aleph. Esatto. E sono così allineate, così collegate, che veramente se le chiamassimo adesso al telefono e gli dicessimo due parole, risponderebbero come se fossero state qui da un'ora a questa parte e avessero sentito questa conversazione. Sì, perché è proprio un... Sì, è come se fosse una sorta di accordatura degli strumenti, e come se potesse quindi anche suonare a distanza. Sì. Sì, questo credo. Beh, credo che questo può essere il modo con cui ci salutiamo tutti i nostri soci, credo, sì. No? Invitandoli il più possibile a entrare a far parte di questo flusso, perché un po' tutti devono essere ricercatori, non si può essere solo allievi, no? Le persone cambiano quando diventano ricercatori in prima persona, e quando diventano attivi, quindi ricercatori di se, e poi siccome il sé è poi tutto il mondo, il mondo e il sé sono... E quindi questo è lo stimolo che... è l'augurio che te facciamo a tutti per il 2010, che tutti possano diventare veramente ricercatori attivi. Attivi con visione. Con visione. Con visione. Attivi con visione. Ok. Quest'anno le collaborazioni si stanno attivando, e questo è una fonte di grandissima gioia. Ecco. Va bene? No?